in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Da questa settimana direi che ci sono molti temi, sono tornati molti temi non strettamente legati al Covid-19, alla pandemia da Covid-19. E però sto anche subito per smentirmi, perché in realtà la prima notizia che ho scelto, ma perché si inserisce in un più ampio scenario che, se vogliamo, in parte avevamo già visto prima dello scoppio della pandemia, che è quello che riguarda l'industria del trasporto aereo. La Frankfurter Allgemeine Zeitung è tornata sul tema della Lufthansa. Sapete che la compagnia, ex compagnia di bandiera, se per compagnia di bandiera intendiamo una compagnia dove la partecipazione dello Stato è maggioritaria, tedesca, da molti anni era diventata completamente privata per la crisi che ha colpito tutte le compagnie aeree. Ricordiamo che ci sono stati momenti in cui il 95% dei velivoli era a terra, non poteva volare. Adesso piano piano si sta tornando alla normalità, ma quella è stata la realtà per alcuni mesi, e quindi la Lufthansa ha chiesto aiuto allo Stato ed è stata scelta una formula particolare, che è quella dello Stato che torna azionista di Lufthansa con una quota del 20%. La Frankfurter Allgemeine Zeitung questa settimana ha parlato dei negoziati che sono in corso, perché ovviamente ci saranno anche dei tagli. I sindacati si stanno mostrando molto collaborativi, anche perché, e questo mi porta anche in altri paesi, Air France ha annunciato migliaia di tagli di posti di lavoro. All'Italia la lasciamo stare perché è un caso a parte, ma anche all'Italia dovrà fare dei tagli ai posti di lavoro. E poi ci sono tantissime altre compagnie come British Airways. Il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz, che è parte interessata di questo negoziato, ovviamente essendo il ministro delle finanze, ha risposto alle indiscrezioni che davano l'azionista di maggioranza Thiele, non del tutto convinto di questo assetto che sta prendendo Lufthansa. Invece ha confermato che il piano sarà quello. Per restare in Germania, perché io lo sapete, sono metà tedesca e forse a volte sono anche un po' di parte, vedo tutti i lati positivi della Germania e dei tedeschi, naturalmente generalizzando, vedo anche i lati negativi, esattamente come mi capita guardando il mio paese, l'Italia. E sicuramente credo nessuno possa dire che la Germania non ha gestito bene la pandemia, sia dal punto di vista medico all'inizio, potendo contare su una sanità territoriale molto ben organizzata, territoriale non solo, e poi la fase economica. Certo, partiva da una posizione di forza, però comunque credo nessuno oserebbe parlare male di questa gestione, soprattutto perché abbiamo tanti altri esempi, a cominciare dal Regno Unito, naturalmente, solo per restare in Europa, di gestione assai più fallimentare. E però naturalmente le persone, gli esseri umani, l'Homo sapiens, hanno gli stessi difetti un po' ovunque, e quindi anche, per esempio, l'avidità e la disonestà. Ed è quello che è successo, che abbiamo visto succedere proprio in Germania questa settimana, con la caduta, diciamo, di un ex quasi re Mida della finanza e della tecnologia, Marcus Braun, fondatore di Wirecard, questa società attiva appunto nel digitale, quotata alla borsa di Francoforte. La società di revisione EY, sapete che ogni società quotata, a volte anche quelle non quotate, sottopongono i loro bilanci a società che sono specializzate nel certificarne la trasparenza e la veridicità. EY si è rifiutata di certificare questo bilancio perché c'erano troppe cose oscure, e quando diciamo cose oscure parliamo di cifre gigantesche, miliardi di euro. Da qui il tonfo in borsa giovedì, un altro tonfo venerdì, ieri, e le dimissioni di Marcus Braun. E questa era l'apertura di Financial Times, ma anche di tantissimi quotidiani tedeschi, che hanno scelto o la foto di Marcus Braun o il grafico del tonfo in borsa, meno 60% appunto giovedì il valore del titolo in borsa, meno 40% ieri, questo per darvi un'idea. Ed è sicuramente Appunto, io non so se il peso maggiore in queste vicende ce l'abbia appunto l'avidità che forse a volte prende il mondo della finanza o forse un po' di delirio di onnipotenza, di questo hanno parlato anche i quotidiani tedeschi. Fatto sta appunto che la società a questo punto è messa malissimo e Marcus Braun si è effettivamente dimesso ieri e vedremo quali saranno i prossimi passi di questa vicenda. Su Le Figaro, per dire appunto che gli altri eventi che abbiamo lasciato un po' così in sospeso, anche se poi tutto quello che abbiamo considerato sospeso ha continuato il suo corso anche durante i mesi della pandemia, tra questi eventi ci sono, per esempio, c'è tutto quello che sta succedendo in Turchia. E Le Figaro ha dato conto di queste tensioni che oppongono per esempio la Turchia con la Francia, ma potremmo citare anche tanti altri paesi. In Germania sono almeno un paio di settimane che i quotidiani tedeschi danno conto di quello che sta succedendo, in particolare tra Turchia e Libia, ma la Francia appunto parla delle tensioni tra Turchia e Francia e spiega Le Figaro che una nave militare francese è stata dispiegata al largo della Libia per identificare un cargo sospettato di essere coinvolto nel traffico d'armi. Questa in realtà non si capisce bene perché, ripeto, questa pandemia ha come un po' abbassato le luci su tutto e non si capisce bene se questo sia un po' un pretesto della Francia per ricominciare a mettere in discussione i comportamenti di Erdogan e della Turchia, però intanto questo è un dato di fatto e Le Figaro l'ha raccontato. A proposito di Francia, tutti i media britannici, come potete immaginare, hanno dato molto spazio alla visita di Emmanuel Macron, nel Regno Unito. È stata giovedì, era su tutte le prime pagine di venerdì ed era anche una data, simbolica perché, il 18 giugno del 1940 è l'anno in cui, dai microfoni della BBC, Charles de Gaulle, riparato tra l'altro, a Londra perché, scappato dalla Francia che era stata invasa dalla Germania, invasa è una parola grossa, però insomma la Germania aveva dichiarato guerra e sappiamo quanto all'inizio della Seconda Guerra Mondiale sembrasse, quasi invincibile la Germania. E quindi l'occupazione, ecco, più che l'invasione, l'occupazione nazista, spinse Charles de Gaulle, a Londra e in quel giorno lanciò l'appello dai microfoni della BBC. La visita ufficiale di Macron, ha coinvolto sia il Premier che il Principe Carlo e, probabilmente sono stati toccati tanti altri temi che hanno a che fare col passato, con la Seconda Guerra Mondiale, ma anche andando più indietro, sapete, la questione legata alla rimozione di tante statue che ricordano personaggi del passato proprio a Oxford, di questo hanno parlato tutti i quotidiani britannici, è stata decisa la rimozione della statua di Cecil Rhodes, che era davanti all'ingresso dell'Università di Oxford, che insieme a Cambridge è la più importante del Regno Unito, tanto che addirittura a volte vengono indicate come Oxbridge, queste due università, che si trovano peraltro appunto in due città diverse, una Oxford e l'altra Cambridge, ma la statua lì era lì dal 1911. Cecil Rhodes fu uno dei protagonisti dell'era colonialista britannica, gestì quello che all'epoca non si chiamava ancora Sudafrica, diede il suo nome a quella che per molti anni si chiamò Rhodesia, che oggi è in parte Zambia e in parte Zimbabwe. Fu decisamente un colonialista, ma soprattutto, ed è per questo che è stata decisa la rimozione di quella statua, fu un teorico dell'apartheid in un certo senso, perché considerava i neri una razza non solo diversa, ma inferiore. E quella statua che era lì davanti all'Università di Oxford all'ingresso dal 1911, della quale peraltro si chiedeva la rimozione già dal 2005, ne è stata decisa la rimozione. Ma cerchiamo di trovare anche qualche argomento, anche solo, non dico più leggero, però che ci porti in altri luoghi. E da internazionale di questa settimana vi segnalo un bellissimo articolo che si intitola La marcia in più. È stato pubblicato su un quotidiano libanese e racconta dalla storia di Lujain Al-Atul, che è un'attivista saudita diventata popolare sui social network. Si è impegnata a favore dei diritti delle donne e per questo è in carcere da 2 anni, nonostante gli appelli per la sua liberazione. Direte, che cosa c'è di leggero o così positivo nella storia di una donna che è in carcere? Beh, innanzitutto che è ancora viva, e non è così scontato quando in questi paesi si viene incarcerati per queste motivazioni, ma soprattutto, secondo me, dà proprio l'idea che se, lontano dai riflettori, lontano dalle luci che noi occidentali accendiamo o scegliamo di accendere, anche per esempio appunto in paesi come l'Arabia Saudita, le donne stanno prendendo coscienza, rischiando a volte anche la loro vita, ma naturalmente si tratta di battaglie che possono essere considerate possono essere considerate talmente importanti da portare a mettere in pericolo la propria vita. Un'ultimissima segnalazione ve la faccio dalla CNN, che ha naturalmente coperto tutte le riaperture nei vari stati e anche a New York, e che ha dato conto delle tante contraddizioni sulle indicazioni per portare o no la mascherina, se vi suona familiare, e non è ancora chiaro in alcuni stati d'America, come del resto in Europa, quali saranno esattamente le regole per l'estate. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.